tempo di sport. Amici di Radio 24, buon pomeriggio da Massimo Callegari, Laura Vanossi in redazione, Valeria Bernardi in regia per questo appuntamento con A Tempo di Sport. Riprende il Tour de France, decima tappa oggi da Limoges a Issoudun. Il nuoto sta per preparare la sua kermesse iridata, ne parleremo a partire da oggi con Dario Ricci che seguirà i mondiali che iniziano nel fine settimana a Roma, ma le copertine di oggi sono per quotidiani, non solo, per la Juventus, per Felipe Melo. Juve me lo sento, dice la Gazzetta in prima pagina, giocando con il nome del nuovo acquisto. Poi grandi aspettative per Ferrara, Cobolli Gigli addirittura sul Guerin Sportivo, Juve da corsa, grandissime aspettative, insomma. So che la cosa non piace a nessuno dei due popoli, ma è evidente che i ruoli sono sempre più ribaltati rispetto al recente passato, davvero, tra Inter e Juventus. Un tempo erano i nerazzurri a dominare i titoli dell'estate, ora sono i bianconeri a catalizzare ogni genere di aspettativa. Capiremo presto se sarà un dato positivo o meno sulle spalle di Ferrara e dei suoi. È però anche un periodo in cui si lavora molto sul piano atletico, anche su quello mediatico, per dare risonanza e risalto al lavoro degli staff che in molti casi l'anno scorso hanno complicato la vita delle squadre che hanno cercato di inseguire l'Inter. Milan, Juventus, Roma, molti infortuni. José Mourinho ha attraversato un brevissimo periodo di calo con la sua Inter, un calo che sembrava fragoroso con il KO di Bergamo a inizio 2009, dopo le difficoltà interne con il Cagliari e prima della sofferta vittoria sulla Samp. Poi però dall'Inter è ripartita e non ha più avuto difficoltà nella gestione dell'aspetto fisico-atletico, che ha fatto la differenza. Parliamo di tutto questo oggi con un amico di Radio 24, Giorgio Rondelli, che cura tanti aspetti legati al calcio e non solo, la preparazione fisico-atletica per il Corriere della Sera e anche per altri media. Buon pomeriggio, Giorgio. Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Dunque, i problemi dell'anno scorso li abbiamo evidenziati in questa breve introduzione. Hanno messo in discussione molti uomini. Alcuni sono cambiati, in particolare alla Juventus, dove è tornato Massimo Neri con Gaudino, entrambi lavorano anche con le nazionali di Inghilterra e Italia rispettivamente, oppure hanno messo in discussione i metodi di qualcuno e il Milan, ad esempio, sta cercando di cambiare qualcosa. Qual è il punto della situazione dal tuo punto di vista? Ma sicuramente l'anno scorso il fatto di non aver raggiunto un equilibrio nella preparazione, il fatto di aver avuto incidenti muscolari, beh, al di là, poi facendo un po' i conti, alcuni, per dare qualche cifra, sembra che la Juve abbia avuto addirittura 72-73 sì, infortuni di vario tipo, in particolare muscolari, con il preparatore Riccardo Capanna, che era 2 anni che era la Juve. La Roma un po' di meno, ma comunque anche la Roma ha avuto parecchi infortuni, parecchi recidive, tant'è che anche il medico, il dottor Brozzi, che era dopo 25 anni di onorata attività, ormai era entrato in rotta di collisione con Spalletti, e a gennaio in pratica è stato esonerato. Lui discuteva che erano un po' anche i carichi di lavoro che faceva fare Spalletti, ma anche il tipo di l'impostazione tattica, che è molto faticosa negli ultimi anni della Roma, bellissima da vedere, ma anche molto faticosa per i protagonisti, fosse uno dei motivi degli infortuni. E poi ci sono sempre tutte queste recidive, perché alcuni giocatori sono così importanti che vengono mandati in campo anche in non buone condizioni. Per il Milan i problemi sono stati di natura anche un po' diversificata, un po' il poco equilibrio iniziale tattico della squadra per le molte stelle presenti in campo, magari con poca votazione al sacrificio podistico, un grande dispendio di energie e poi per alcuni malati storici, vedi Nesta, vedi caso Borriello, 2 o 3 infortuni recidivi, poi scoperta una ciste in successione, anche il recupero di Kakà, che è stato anche un po' polemico, senza andare a rivangare i problemi di Ronaldo, hanno fatto vedere che c'erano una poca connessione o comunque delle discordanze di vedute fra il tanto celebrato Milan Lab, gestito dal dottor Messerman e il settore tecnico. Ecco, parleremo anche di questo tra poco. Naturalmente è chiaro che siete come sempre protagonisti anche voi, soprattutto voi che ci ascoltate, 800 24 00 24, già alcuni sms su questo e altri temi al 349 238 6666, tra poco lì approfondiremo. Dicevi del Milan, Giorgio, sì. Si parla in questo periodo delle nuove metodologie che Leonardo avrebbe portato, nuove probabilmente per la situazione specifica del Milan, dai, perché non sono nuove in assoluto, no? Per qualcosa di nuovo, diciamo sì. Comunque c'è un'impostazione diversa, sembra che ci siano molte più esercitazioni con la palla, cosa che fa anche l'Inter, sì. L'Inter di Mourinho, Leonardo ha viene dal calcio brasiliano e quindi il controllo di palla è uno dei suoi pezzi forti. Mourinho ha allenato per diversi anni in Inghilterra, dove la parte atletica è gestita in maniera un po' particolare, si fanno molte esercitazioni con la palla però giocano di più. Uno dice, allora, ma perché se giocano di più e si allenano un po' di meno, com'è che corrono, che sembra che corrano di più? Io credo che sia un'impostazione tattica delle squadre, una sia quella, ma due siano soprattutto molto più allenanti, Massimo, il gioco inglese con meno spezzettato anche dagli arbitraggi, si gioca a maggiore velocità e quindi fra impostazione tattica, aggressività psicologica e velocità di gioco, questa dà la sensazione che le squadre inglesi al di là dei fuoriclasse che hanno corrano di più. L'Inter da questo punto di vista non ha corso grossi problemi dal punto di vista fisico, l'Inter di Mourinho, sì, l'anno scorso, ma non è che dal punto di vista atletico abbia incantato più dell'Inter precedente di Mancini, tutt'altro, però ecco, se non altro ha evitato questi problemi. Quindi un Milan che lavorerà sull'intensità, con maggior gioco con la palla, maggiori esercitazioni, alla ricerca anche di quell'intensità, di quella velocità di manovra, Massimo, che era un po', è stato un po' il tallone d'Achille del Milan, al di là delle accelerazioni di Pato e Kakà. Esatto, e ma compagnia. Basta questo per cambiare il ritmo globale di una squadra con gli stessi interpreti? Non lo so se basta questo, comunque diciamo è un tentativo, poi bisognerà vedere anche se succede qualcosa nel mercato. È chiaro che magari una partenza di Pirlo potrebbe essere negativa da un certo punto di vista e potrebbe magari portare a un tipo di gioco più in velocità, non lo so se basta questo, comunque è un tentativo di un approccio diverso alla preparazione, perché era un Milan che viveva anche di fiammate, sì, ogni tanto di accelerazioni, così, però era un Milan che sull'arco dei 90 minuti, se trovava una squadra che correva e che li pressava un po' tutto campo, andava in difficoltà. Tra le altre cose si parla anche di una eventualità che Leonardo sta studiando, che probabilmente nella sua testa è già più che presente, più che approvata, ma che richiede un'approvazione più globale, magari graduale, da parte del gruppo, di allenamenti al mattino, cosa che tu mi dicevi mentre preparavamo un po' alcuni di questi temi, nell'atletica ad esempio, che tu segui da decenni, è piuttosto usuale. Sì, io credo che ci siano delle usanze, dei luoghi comuni nel calcio che sinceramente non capisco. Mi sembra normale potersi allenare al mattino, anche perché in questo periodo al di là delle scelte, soprattutto anche in una squadra come il Milan, che è una delle pochissime, Massimo, che non ha scelto di andare in posti montani, sì, a 1000 metri, come, perché quasi tutte le squadre hanno fatto questo tipo di scelta, tranne forse il Milan, che da anni si allena al centro di Milanello, e l'Inter, che ha fatto una scelta di cui magari poi sviscereremo nel nostro colloquio. Sì. Ecco, il Milan lavora lì, quindi io trovo che allenarsi presto, nelle ore un pochino più fresche, perché poi quando si va ad allenarsi dopo le 10, 11, verso mezzogiorno, fa molto più caldo. Come trovo anche assurdo certe volte tornare in campo alle 3 del pomeriggio, quando ci si può allenare benissimo dalle 5 e mezza, 6 alle 8. Quindi alcune cose sono dei luoghi comuni, sono delle abitudini che si fa così, e quindi credo che debba essere rigestita o ridisegnata certe volte gli orari di preparazione delle squadre. Non ci trovo niente di male, ci sono in altri sport vabbè, l'atletica è uno sport individuale, ma alcuni, i grandi atleti africani si allenano 3 volte al giorno, alle 6 del mattino, alle 10 e alle 5 del pomeriggio, per cui bisogna conoscere quali sono gli orari migliori anche per i tempi di recupero, per le condizioni climatiche, e saper mettere assieme tutte queste cose. L'Inter è già a Los Angeles, UCLA, dove José Mourinho era già stato con il Chelsea. Sicuramente dal punto di vista commerciale è un'ottima operazione. Lui aveva tratto buoni riscontri nella sua esperienza con i Blues anche sul piano della preparazione. Ci sarà anche il Milan tra poco negli Stati Uniti, ci sarà anche il Chelsea di Carlo Ancelotti. Andare da quelle parti comporta vantaggi, svantaggi? È esattamente la stessa cosa come allenarsi da noi? A quale latitudine, a quale altitudine ad esempio, Giorgio? Ma voglio dire, la scelta di Los Angeles, la trovo, tu prima hai sottolineato, una scelta di immagine, una scelta commerciale, una scelta anche da un punto di vista psicologico, di variare gli ambienti, di entrare in contatto con ambienti massimo storici, la UCLA University, sì, grandi campioni del basket, grandi campioni del football americano, grandi assi dell'atletica, quindi respirare un qualcosa di diverso dal solito tran tran calcistico lo trovo sicuramente positivo per la testa del calciatore. Poi è chiaro che ci sono impianti favolosi, ma credo che squadre stramiliardarie abbiano impianti favolosi anche a casa loro, o li possano trovare anche da altre parti. È una scelta condivisibile, in cui diciamo i vantaggi, come ti ho detto prima, sono in percentuale di varia natura, commerciale, di immagine e psicologico, per fare allenamenti che poi da allenarsi alla UCLA University piuttosto che a Pinzolo sia più vantaggioso a Los Angeles, ho le mie perplessità. Certamente c'è da gestire questo jet lag, il cambio di ci sia un fuso orario, una differenza di nove ore, però credo che ormai siano diventati molto pratici in questo caso, in questo tipo di situazione. Massimo, ci si può allenare molto, è preferibile allenarsi molto forti i primi giorni arrivati, sì, e casomai andare calando, diciamo, dal quarto al sesto giorno. Una scelta del genere al contrario l'aveva fatto il Milan, adesso non mi ricordo, in una coppa intercontinentale andando a Tokyo, poi pagando dazio nella finale qualche anno fa. C'è uno spunto di un nostro ascoltatore che non si è firmato con un SMS che può essere interessante. Lui parla delle condizioni del campo di Milano, quindi presumo di San Siro, che vanno considerate per gli infortuni e altro. Però ad esempio Mourinho ha chiesto e ottenuto che i campi della Pinetina, dove l'Inter si allena, venissero rifatti proprio per le condizioni migliori, ideali di allenamento. E ricordo che quando Fabio Capello partecipò all'inaugurazione del centro sportivo della Juventus a Vinovo, espresse molte perplessità, che poi si rivelarono più che fondate, sulla umidità attorno a quella zona e sulle qualità del campo, che poi hanno portato a causare molti infortuni anche alla Juventus. Sì, ecco, questo diciamo che condivido al 100% questa la seconda diagnosi. Sì. I campi di allenamento sono importanti, perché Massimo, tu lì ti alleni tutti i giorni, anche 2 volte al giorno, invece su prato magari dell'Olimpico a Torino, di San Siro, ci giochi solo la partita. Sul fatto che poi molti infortuni siano procurati dal campo che non è bello, io non sono totalmente d'accordo. Diciamo che si gioca peggio, che magari è più difficile, magari magari controllo la palla, qualche rimbalzo, poi che vengano determinati infortuni. Io che ho seguito un po' questi anni abbastanza sistematicamente, ho visto molti infortuni che si sono verificati a San Siro, erano quasi sempre di giocatori mandati in campo in non condizioni, con recidive, con situazioni a rischio, che poi nell'occasione specifica si sono rifatti male, ma probabilmente si sarebbero fatti. Ricordiamo il povero Ronaldo, quando si fece male la rottura del tendine rotuleo giocando con la Lazio, giocava su un bellissimo campo, a un certo punto gli ha ceduto il ginocchio, ma non è che aveva già problemi precedenti, quindi sì. insomma, bisogna fare un po' di distinguo, insomma, in queste situazioni. Bentornati, 800 24 00 24 per le vostre telefonate, 349 238 6666 per i vostri messaggi. Ce ne sono alcuni che riguardano un po' il tema che stiamo affrontando della preparazione atletica in vista della prossima stagione, altri le prospettive, i sogni di mercato, quello del Genoa ad esempio. Stefano da Brescia chiede quale potrebbe essere l'impatto di Rodrigo Palacio sul campionato italiano con la maglia del Genoa. Appunto, Palacio ha 27 anni, ormai è chiaro, non è più considerato un giocatore top class per le grandi d'Europa. Nella realtà tattica ambientale del Genoa e di Genova, molto legata anche a quella del Boca, non a caso chiamata la squadra zeneise, genovese da quelle parti, potrebbe sicuramente esaltarsi a grande velocità unita a una buona qualità, l'ideale per Gasperini, anche se non è abituato a giocare nel attacco a tre che solitamente il tecnico del Genoa utilizza. Poi naturalmente ci sono anche tifosi milanisti, non so se preoccupati o meno, che chiedono se Pirlo resta o se ne va. In questo momento sembra che il Chelsea sia pronto per lanciare un attacco più o meno deciso e forse anche decisivo per averlo. Torniamo però con Giorgio Rondelli a parlare di preparazione atletica in vista della prossima stagione, e salutiamo anche un amico comune, ex medico storico del Milan che continua a lavorare molto nel settore medico sportivo con la sua professione, e un amico anche di Radio 24, il dottor Tavana, Rodolfo Tavana, benvenuto. Grazie, saluti a tutti. Giorgio Rondelli parlava prima, Rodolfo, di un rapporto tra staff medico e staff tecnico mai così problematico come nelle recenti stagioni, la diatriba tra Roberto Mancini e il dottor Combi all'Inter prima, quella tra Luciano Spalletti e il dottor Brozzi alla Roma, da una parte se n'è andato l'allenatore, dall'altra il medico responsabile dello staff medico. È sempre stata così dura la vita in questo rapporto? Bah, sa, qui in questi casi ci si basa un po' su esperienza personale, chiaramente. Sì. Nel senso che per la mia esperienza al Milan questo problema con gli allenatori con cui ho lavorato non si è mai posto. E oltretutto in Italia c'è una legge che si è formata qualche anno fa, che è una puntualizzazione della legge 91, la legge sui professionisti, che dà l'onere e l'onore al medico di decidere di tutto, ossia esistono proprio dei moduli che stabiliscono se un giocatore può o non può giocare, quindi se nel caso fosse fatto giocare contro il parere del medico si rientra nel reato penale, perché è una legge di Stato. Però al di là di questo le cose non si risolvono sul piano legislativo, si devono risolvere sul piano dei rapporti personali, e sbaglia chi dei due crea questi tipi di attriti e non si cerca di arrivare a un dialogo. Insomma, secondo me è nell'interesse di tutti che ci sia armonia, anche perché il rischio quando ci sono poi queste diatribe è che la squadra si rompa in due, chi pro medico e chi pro allenatore. Ecco, Giorgio Rondelli, la Juventus sembra tornata in questa fase di preparazione a un allenamento un po' più basato sulla forza, è tornato un po' il modello della Juve dei Marines, anche se meno esasperato come ai tempi di Ventrone, con il ritorno di Massimo Neri che aveva lavorato con Fabio Capello. È un ritorno appunto al passato, c'è un ritorno verso un allenamento estremo sul piano della forza e della potenza, o c'è un equilibrio da ritrovare? Ma io penso che sia giusta la tua seconda sottolineatura, cioè direi un ritorno verso l'equilibrio. Se d'altronde anche nel calcio nella seconda metà degli anni 90 c'era stata un'esasperazione un po' dei lavori di forza con varie problematiche, dalle tendinite rotule, poi altri tipi di infortunio, si erano creati un po' delle strutture, cioè anche la struttura scheletrica, un po' il telaio, poi doveva sopportare dei motori muscolari che non reggevano, di qui gravi infortuni, ma di qui questo potrà meglio spiegarlo meglio di me il dottor Tavana. Poi si era arrivati invece, diciamo, con la gestione Neri. Ricordiamo che Neri è stato alla Juve due anni con Capello, sì. Neri è un professionista che aveva lavorato parecchio tempo con Mazzone, e quindi direi che ha lavorato abbastanza bene sia sulla parte organica che sulla parte muscolare. L'arrivo del, del professor Capanna, che aveva invece lavorato molto su, dal punto di vista organico, cioè su, sulla corsa, così, al primo anno aveva pagato molto perché la squadra aveva lavorato bene nell'anno precedente. Poi evidentemente questo magari minore attenzione ai lavori, ai lavori di forza esplosiva, di forza veloce, aveva portato la squadra sia a correre, ma poi quando c'erano momenti di alta intensità, di esasperazione, così, a, a tutta una serie di infortuni muscolari che poi sono, sono tanti. Poi dopo, quando si entra in questo tipo di situazione, Massimo, con giocatori che vanno e vengono dal campo infortunati e tornano in campo, e diventa sempre molto difficile. La recidiva è sempre dietro l'angolo, perché tu in allenamento non ti rifai mai male, perché decodifichi il pericolo un attimo prima di fare una giocata. Nella partita, sì, dove tu che giochi anche a calcio, basta un rimpallo, parti, deceleri, riacceleri e ti rompi. E quindi credo che si sia creato questo tipo di situazione. Credo che la Juve non sarà la Juve dei, dei Marines, ma sarà una Juve ben equilibrata, con un lavoro a 360 gradi, e sarà competitiva anche coi muscoli, perché con la testa mi sembra che ci siamo già. Ecco, gli spunti per il dottor Tavana ci sono già in buona dose. Ne aggiungo uno di un ascoltatore che si firma Emanuele Allegri, che ha scritto un sms su questo tema e dice: penso che una buona parte degli infortuni sia dovuta a una carente preparazione atletica che in poco tempo è impossibile dare, evidentemente con riferimento alle tante amichevoli, ai tanti impegni che ci sono nel corso dell'anno. Rodolfo? Ma innanzitutto Giorgio ha detto le cose più giuste, ossia un giusto equilibrio nella preparazione, perché il gioco del calcio, che si sviluppa per 90 minuti a un certo ritmo di corsa, giocatori che fanno 12, 13, anche 14 km, capisce bene che se spostiamo tutto solo sulla forza non ne usciamo. Non è il football americano dove fai 10 metri ti fermi, 10 metri ti fermi con grandi impegni in forza muscolare. Io proprio per ribadire quanto sostenuto da lui, ho avuto, mi ricordo, un anno un preparatore che aveva veramente esasperato un pochino il concetto di forza, e il risultato, oltre a lesioni muscolari frequenti, è stato quello di avere due ernie del disco, che furono poi operate, va bene, nel giro di 3 mesi tornarono a giocare, per carità, però insomma la dice lunga su quello che può essere programmare solo in una direzione, in uno sport come il calcio, dove in fondo si corre e si scatta e ci si ferma e ci si arresta e si riparte per 90 minuti. L'altro aspetto, sì, effettivamente manca un po' la preparazione che c'era un tempo, cioè quel benedetto mese in cui il massimo delle partite erano appunto con le squadre giovanili piuttosto che con squadre di secondo piano. C'è da dire una cosa però, che oggi hai a che fare con dei professionisti a cui si chiede, in quella che è la fase cosiddetta di transizione, cioè quella in cui loro vanno in vacanza, nella maggior parte dei casi i giocatori in questo periodo si allenano comunque. Che poi giochino a tennis o vadano a correre e non giochino a calcio non vuol dire che non svolgano una preparazione. Io ricordo alcuni giocatori longevi del Milan, cito Costa Curta che mi viene in mente, lui in vacanza addirittura si prendeva un suo preparatore atletico e lavorava palestra, corsa, faceva un po' di tutto, per cui si presentava il primo giorno che era già preparato. Quindi se da una parte è vero quello che dice l'ascoltatore, può essere un handicap, cioè perché si parte pronti via e magari dopo 10 giorni giochi contro il Real Madrid senza una preparazione, d'altra parte in certe società hai la serietà di giocatori che si impongono degli allenamenti un pochino differenziati durante il periodo di vacanza. Sì, si diceva anche di Nedved che anche il giorno di Natale andava a correre al mattino, sì, per tenersi pronti. L'ultima cosa per chiudere, sì, con uno spunto per entrambi. Il primo per il dottor Tavana: ci sono diversi giocatori, oggi c'è anche un pezzo riepilogativo sul Corriere della Sera in questo senso, che cercheranno un rilancio nella prossima stagione sul piano tecnico ma anche fisico. Nesta, Boriello, Cristiano Zanetti, Aquilani, Francesco Totti. Dove arriva la responsabilità oppure la possibilità reale del medico di aiutare questi giocatori a non essere così recidivi nelle ricadute come lo sono stati in precedenza? È possibile oppure si tratta di caratteristiche fisiologiche? Ma sì, guardi, però ritornerei al primo discorso. Cioè, è chiaro che il medico tende a frenare e a dare garanzia all'allenatore che quando il giocatore entra in campo sia quello il giorno esatto. Cioè non bisogna basarsi solo se tu ascolti il giocatore, non bisogna basarsi solo sul sintomo dolore, no, hanno una lesione muscolare, dopo 15 giorni hanno dolore ma non sei guarito. Purtroppo bisogna nella maggior parte dei casi aspettare 40 giorni. Se c'è una sintonia negli intenti, è chiaro che non acceleri i tempi e riduci il rischio di recidiva. Devi avere questa sintonia, chiaramente, purtroppo capisco, devi avere anche i giocatori dietro, perché se io voglio dire, per fare un esempio dei tempi miei, fermo Shevchenko perché è infortunato e gioca Inzaghi, il prodotto finale non cambia, il Milan vinceva ugualmente, quindi è facile fare i grandi da parte del medico in queste realtà. Diventa più difficile quando sei in una squadra dove tiro via, che so, Cassano, non ne hai un altro uguale pronto. E quindi capisco che a volte medico e allenatore in sintonia possono veramente ridurre le recidive, però come diceva Giorgio, purtroppo fanno parte del gioco. Benissimo, Giorgio, per chiudere rapidamente, rispetto all'anno scorso la Roma è stata la prima a radunarsi, anche perché gioca subito il 30 luglio in Europa League nel preliminare. Ci siamo abituati a vedere anche squadre come il Milan giocare il preliminare di Champions e vincere poi la competizione, ma può essere un problema per la Roma iniziare così presto? No, la Roma credo che sia stata, credo che sia stato di due ordini. Uno, dal punto di vista atletico, di ritrovare una condizione. Abbiamo visto che la Roma passata aveva questo gioco così, con questi grandi inserimenti di questi tre giocatori di tutte le punte che coprivano spazi enormi di campo, ma anche molto dispendiosi. L'anno scorso fu l'ultima a cominciare la preparazione e poi non trovò mai quella condizione se non per brevi periodi. È partito subito però con un infortunio grave a Perotta, un altro infortunio muscolare, però vabbè, può far parte del gioco. Riguardo alla domanda che hai fatto prima, Rudy, mi permetto, sì, di aggiungere che poi adesso c'è anche non questa moda ma questa necessità che alcuni pezzi da 90 hanno il preparatore personale e aggiunge qualche pezzo da 90 magari vuole andare in campo anche quando non è a posto perché è così, insomma, perché poi ha queste forme di piccole prepotenze che poi magari qualche volta poi la squadra la paga sulla propria pelle. Credo che il riferimento sia molto chiaro, del resto insomma è risaputo anche che ci sono alcuni giocatori come Francesco Totti e non solo che hanno una responsabilità finale, una decisione finale che spetta a loro sulla scelta o meno di presentarsi in campo indipendentemente dalle condizioni fisiche ottimali o meno. Grazie, a presto a Giorgio Rondelli e Rodolfo Tavana. Grazie a voi, grazie, buona giornata. Diversi ascoltatori in linea per trattare temi proposti oggi e non solo sul calcio soprattutto, ma parleremo anche di nuoto, dei mondiali di Roma che si avvicinano nel fine settimana. Molti messaggi, uno molto simpatico da parte di Luca che in merito al tema delle tante amichevoli internazionali di prestigio delle grandi squadre che potrebbero essere una delle cause dell'aumento degli infortuni dice: il Bologna fa sempre amichevoli con le rappresentative della montagna ma gli infortunati li ha comunque. Poi c'è Antonio che dice: ok, Leonardo è bravo ma non è un genio, lasciamogli il tempo e il modo di dimostrare se vale davvero. Effettivamente anche quanto abbiamo detto poc'anzi è in questa direzione, nel senso che potrebbe essere una intuizione particolarmente acuta, però è chiaro che i metodi che Leonardo sta proponendo, al di là di una variante che probabilmente, se non sicuramente, era necessaria per smuovere un po' gli animi a Milanello dopo 8 anni di Carlo Ancelotti, al di là di questo sono metodi che non sono totalmente rivoluzionari. Mentre Enzo dalla provincia di Varese chiede se per caso la Juventus possa giocare con un 3-5-2 e questo escluda l'arrivo di terzini, sicuramente no, né l'una né l'altra, nel senso che anche se giocasse con quel modulo avrebbe bisogno, anzi a maggior ragione, di esterni ancora più tali di ruolo anche in fase offensiva e non solo abili o più abili rispetto a quelli che adesso in fase difensiva. Iniziamo però con i vostri interventi. Cristiano dalla provincia di Pavia, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti quanti, complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo fare due considerazioni e sapere cosa ne pensava lei sul mercato di quest'anno della Juventus, che è andata a parare, diciamo, ci cercava un centrocampista come D'Agostino e Xabi Alonso, E poi 25 milioni di euro per prendersi Felipe Melo, ottimo giocatore, che però non riesco ancora a individuare dove lo farà giocare Ferrara e come giocherà questa nuova Juve. E un'altra cosa sempre sulla Juventus, questo si parla dell'arrivo di Grosso, ben venga, però io voglio sapere sull'esterno destro, sto Grighera e Zebina non danno più garanzie. E un'ultima cosa sul Milan, doveva essere rifondato, perché ormai la squadra da rifondare su Pato, Kakà, i due giovani, i due pilastri. Kakà se ne va, Pirlo sembra più con una zampa fuori, con una zampa dentro. Che Milan sarà? Aspetto una risposta, la ringrazio. Bene, grazie a lei. Dunque, per quanto riguarda la Juventus, è chiaro che lo ha ribadito in maniera molto chiara anche Arrigo Sacchi, in più occasioni è differente la posizione tattica, la caratteristica globale di Felipe Melo rispetto a quella di D'Agostino. È probabile che la Juventus avesse più bisogno di un giocatore come D'Agostino in senso assoluto, avendo già un mediano di grande vigore fisico come Sissoko. È anche vero che probabilmente Felipe Melo ha capacità fisiche di statura internazionale superiore rispetto ad D'Agostino, e dunque i dirigenti della Juventus hanno fatto una scelta. È probabile che la Juventus giochi con due centrocampisti come Sissoko e Felipe Melo davanti alla difesa, tre più avanzati e un centravanti di riferimento. È anche vero che Felipe Melo gioca in questo modo con il Brasile, ma alla Fiorentina, dopo aver iniziato davanti alla difesa, Prandelli ha fatto di tutto per spostarlo un po' più avanti in un centrocampo a tre, per sfruttare le sue capacità di tiro, le sue capacità di inserimento e anche di colpitore di testa, cercando inutilmente Palombo nel mercato invernale della scorsa stagione. Zebina Grigera, è vero, non è una coppia particolarmente affidabile, il primo sul piano fisico, l'altro sul piano complessivo, tattico e tecnico. È anche vero però che Mourinho forse ci sta un po' deviando in una direzione che non è perseguibile. Non si possono avere 11 giocatori di livello mondiale, si può vincere anche con giocatori complementari. Il Liverpool è arrivato spesso in fondo in Champions con Arbeloa, laterale destro, oppure Finnan. Milan, infine, è vero, non è una squadra che si sta rifondando in senso assoluto, probabilmente ci sarà bisogno di un po' di tempo per fare questo, e in questo momento il Milan non parte sicuramente in prima fila, anche se Pato è il giocatore che probabilmente il prossimo anno avrà l'impatto maggiore e ancora più roboante sul nostro campionato. Alessandro da Savona, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Volevo intervenire sulla Fiorentina, la mia squadra del cuore, perché sì, ieri si è radunata e purtroppo non ho avuto possibilità di seguire attraverso i mezzi televisivi e giornali, così come è andato, diciamo, raduno, come è andato l'impatto con un po' in tono stagione. Minore pare, ecco, ho intuito qualcosa, perché c'è un po' di forse un po' di fretta per quanto riguarda Prandelli, che forse gli si è tolto un calciatore importante, vedi Melo, però avrei piacere di sapere qualcosa più da voi. Vi ringrazio in anticipo. Sì, no, io le chiedo, prima di darle la mia opinione, siccome lei ha seguito, credo, la Fiorentina in questo periodo, e anche ieri ha chiamato un ascoltatore per avere indicazioni in questo senso, sei ancora in linea? Sì, sono qua. Quali sono le percezioni vostre di tifosi, di popolo, rispetto alla filosofia della società? Se voi siete soddisfatti di come viene gestita, se vi aspettate o vi aspetterete un salto di qualità ulteriore, se è sufficiente per voi arrivare sempre tra le prime 4-5 nelle ultime stagioni? Io esprimo la mia opinione. Sì. Arrivare fra le prime quattro, sono già 4 anni che questo accade, al di là di tutti i demeriti sportivi che poi ci hanno applicato addosso per quanto riguarda le penalizzazioni eccetera, però sono 4 anni che di fatto noi siamo quarti o terzi, e questo, questa grande concorrenza che c'è in Serie A, vedi Roma, Milan, Inter e Juve in primis, è sempre, credo, un grande obiettivo esserci riusciti. Ora però si fa sempre più difficile la questione, e quindi è chiaro che un calciatore importante come Felipe Melo andato via alla Juve, quindi una squadra concorrente, direi proprio che non è il modo migliore per partire. Però capisco anche che 25 milioni di euro in cassa possono far comodo per essere rigettati sul mercato, essere gestiti chissà per qualcosa di importante, qualcosa di ancora sconosciuto, che Corvino, chiaramente essendo molto bravo a trovare qualcosa in giro, potrebbe trovare qualcosa veramente interessante. Bene. Però lascio a lei ancora un po' di, diciamo, un po' di pensiero giornalistico per il merito. Grazie. Bene, grazie a lei. Posso aggiungere che non è semplice per Prandelli programmare una crescita di squadra se in ogni estate c'è la eventualità o addirittura l'effettiva poi realtà della cessione di un giocatore su cui lui ha costruito buona parte delle fortune del club nell'anno precedente. Penso a Mutu nell'estate scorsa, solo lui, Prandelli, si impose per evitare che venisse ceduto alla Roma, come era già nella sostanza avvenuto con l'accordo di tutte le parti. Penso allo stesso modo che a volte servirebbe un tentativo di alzare un po' l'asticella, di cercare un salto di qualità ulteriore. Immagino che la piazza di Firenze sia molto difficile, molto esigente, sia un po' umorale, quindi si esalta e si deprime in maniera un po' sudamericana, come accade anche a Roma e ancora più in giù nelle piazze come Napoli. Però ad esempio, quando nell'ultima stagione la Fiorentina ha disputato l'ultima partita con il Milan, aveva la possibilità di superarlo in classifica con una vittoria e di evitare dunque i preliminari di Champions, garantendosi introiti sicuri per la prossima stagione e anche per il mercato, nel corso della settimana le voci complessive della società, dell'allenatore, sono state: vabbè, siamo già quarti, matematicamente, aritmeticamente, se dovessimo riuscire a superare il Milan sarebbe qualcosa di ulteriore, di guadagnato e di magico, però siamo anche contenti così. Forse, lavorando in un ambiente che fa anche dell'entusiasmo una delle caratteristiche fondamentali, sarebbe stato utile caricare la piazza e i giovani, cercando di arrivare ad avere una maggiore cattiveria sportiva in quella partita, che in realtà il Milan giocò sui ritmi suoi soliti dell'anno scorso, ma vincendo senza particolari difficoltà e grande opposizione della Fiorentina. Alessandro dalla provincia di Milano, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Grazie per l'opportunità che mi date, sono emozionatissimo. Devo essere... Io vorrei più che altro legarmi agli interventi dei suoi due ospiti di prima, legati agli infortuni, eccetera. Sì. Secondo me, cioè, io non sono un vecchio, diciamo così, perché vabbè, ho 49 anni, però mi ricordo da ragazzini quando si giocava in mezzo alla strada, eravamo sempre in strada, nei campi, dappertutto, eccetera. Ho l'impressione che la gioventù, diciamo, dei calciatori di adesso siano, come si dice dalle mie parti, cresciuti con il mangime, nel senso siano più deboli fisicamente. Non è anche per questa una chiave di lettura relativamente agli infortuni che ci sono stati nella scorsa stagione, vedi Roma, Juve, Milan, Inter stessa e tutto quanto. Era questa una mia domanda, alla quale volevo sapere un parere un pochino più autorevole di quella che è la mia sensazione. Sì, scusi, cioè nel senso che non c'è una formazione fisica, atletica come un tempo, sì. Sì, sono un po' più costruiti in palestra, forse troppo esasperate, cioè fino magari da troppo giovani, nel senso sviluppo di una massa muscolare sopra magari uno scheletro osseo o uno sì. scheletro tendineo, che magari non può reggere il carico dei muscoli, ecco. Il muscolo sviluppa 100 e il tendine magari ne regge soltanto 80, ecco, una cosa del genere. Sì, sì, no, questo è possibile, nel senso che in parte è quanto abbiamo detto in precedenza, proprio su quel periodo in cui la Juventus di Ventrone fu la massima interprete di questa filosofia, si lavorava molto sulla potenza e poi ci furono infortuni legati ai tendini, il più eclatante fu quello di Ronaldo. Probabilmente ora si è tornati su un equilibrio, si sta tornando su un equilibrio diverso. È probabile che in realtà i giovani adesso siano più pronti fisicamente, o perlomeno dovrebbero esserlo, perché la palestra e la formazione fisica generale da un'età adolescenziale, fatte con un'attenzione particolare anche a chi sta crescendo, dovrebbero aiutare il giovane e l'atleta futuro a essere più preparato, più robusto e avere una maggiore resistenza. Però è chiaro che poi anche lì bisogna affidarsi alle persone giuste, e non sempre anche i grandi club a livello giovanile lavorano con tutta l'attenzione che serve in questo settore. Parleremo anche di nuoto tra poco, perché nel fine settimana iniziano i mondiali a Roma e noi dedicheremo una copertura quotidiana a questo avvenimento in tempo di sport e naturalmente anche nei giornali radio. Vucinic, per il bene della Roma potrei andare via dal ritiro di Riscone di Brunico. Il problema viene affrontato dal montenegrino che dice: ho firmato il rinnovo da poco e mi dispiacerebbe andarmene, ma per il bene della Roma potrei farlo, per ora non ci sono state richieste. Lori da Milano invece ha scritto via SMS e dice: bisogna avere fiducia perché Corvino è un ottimo scopritore di talenti. Lei che ne pensa? È vero, è risaputo, molti sono arrivati anche nel settore giovanile, poi non hanno avuto spazio in prima squadra ma sono stati utili poi nella gestione anche economica del club con l'inserimento in diverse trattative. Però l'Arsenal insegna, è bellissimo il modello dei giovani, è molto affascinante, è molto interessante. Senza giocatori di esperienza non si arriva a ottenere il massimo risultato, perché come in tutte le cose della vita serve equilibrio, e solo giovani o solo giocatori esperti qualcosa manca, o la freddezza per affrontare i grandi appuntamenti o la freschezza per resistere con continuità nel corso della stagione. Marco da Torino, buon pomeriggio. Buongiorno, ringrazio per l'opportunità. Prego. Io sono tifoso juventino da sempre, adesso ho 43 anni e l'ho sempre seguita. Io in questo momento vorrei soffermarmi sulla assoluta, comunque dimostrata, incapacità di gestire il mercato da parte delle persone preposte nell'ambito juventino, perché andare a comprare un giocatore come Felipe Melo a quella cifra accentua ancora di più quelle che sono le carenze di questi personaggi, perché io ricordo soltanto i Thiago, di Almirone, di Paulsen, con cifre spese in modo ingente, e l'assoluta incapacità, come diceva lei a proposito per esempio di Corvino, di trovare il giocatore giovane con delle potenzialità e di farlo esprimere. Questo probabilmente, da sottolineare. Sì, probabilmente le pressioni della piazza si fanno sentire, nel senso che anche i dirigenti della Juventus forse pensano di non avere spazio e tempo per inserire dei giocatori per i quali si può aspettare di vincere un anno ancora. Non lo so, lei che appartiene al popolo della Juventus mi può aiutare. Se mi permette ancora sì, una cosa, sì, sì. Scindendo le brutte cose extracalcistiche della dirigenza precedente, sì, la Juventus è andata a prendere a costi contenuti giocatori che si sono rivelati immediatamente forti e con dei rendimenti alti. Parlo di Paolo Sousa, parlo di Deschamps, cioè non lo Zidane, ma i giocatori, come possono definirsi tra virgolette, complementari, a costi non elevati ma che hanno dato dei rendimenti altissimi. Sì, sì, beh, anche l'Inter effettivamente, sì, sì, anche l'Inter ha acquistato Maicon per una cifra, esatto, limitatissima, cambiasse a parametro zero, è vero. Lo Zidane comprato a una cifra altissima, o il Cannavaro e il Buffon presi al Parma a cifre, sì, altissime, va bene, quelli sono i giocatori intorno a cui costruisce una squadra. Ma la Juventus, scindendo, ripeto, meriti di conoscenza calcistica poi da estremi extracalcistici che sono sicuramente da condannare, ma chi c'era precedentemente sapeva individuare il giocatore forte a costi contenuti e che dava un risultato altissimo. Ecco, questo mi limito a sottolineare. Bene, grazie. Grazie, buongiorno. Grazie Marco da Torino, le sue considerazioni erano queste. È chiaro, ribadisco, che le aspettative poi sono molto pressanti. Ora c'è un grandissimo entusiasmo, 10.000 persone a Pinzolo, però poi bisogna lavorare nel corso della stagione e sapere che ci sono momenti di difficoltà, e bisogna capire se anche la dirigenza, che l'anno scorso ha avuto un momento di difficoltà ed è crollata sul piano dell'autorità, poi riuscirà a mantenere questo ruolo nel corso di questa stagione, con una guida tecnica peraltro nuova che nasconde grandi incognite, come anche grande fiducia da parte di chi si è affidato a Ferrara. Parliamo per qualche minuto ora dei mondiali di nuoto che sono in partenza nel fine settimana a Roma. Lo facciamo con Dario Ricci e partiamo dalla pallanuoto, che tante gioie ci ha regalato negli anni 90, soprattutto in campo maschile. Dario, ora cosa ci aspettiamo da questi mondiali? Buon pomeriggio. Buon pomeriggio Massimo, buon pomeriggio agli amici in ascolto. Beh, sono mondiali sicuramente più complicati per la pallanuoto, quelli che scattano venerdì prossimo a Roma, perché Sette Rose e Sette Bello sono in una fase di profondo rinnovamento. Usciamo dalle Olimpiadi di Pechino con un sesto posto per le ragazze e un nono posto addirittura per gli uomini, due allenatori completamente nuovi, perché sulla panchina delle ragazze c'è Roberto Fiori al posto di Mauro Maugeri, che ora allena l'Olanda, campione olimpica, e che a Pechino proprio ci eliminò ai tiri di rigore. Sulla panchina invece del Sette Bello, Sandro Campagna, uno dei campioni della generazione d'oro, che ha preso il posto di Malara. Insomma, fase di transizione, e speriamo però che il tifo del Foro Italico possa regalarci quello che al momento sulla carta ci manca per puntare al podio. Nel frattempo Laura Vanossi dalla redazione mi segnala un'ansia al veleno di Federica Pellegrini, che già dice: se vinco tutti faranno finta di essere felici, ma staranno recitando. Se dovesse andare male, già vedo la scena, riceverò una pacca sulle spalle, consolazione davanti al pubblico, poi andranno di là a festeggiare. Si è lamentata in un'intervista a Vanity Fair anche per il trattamento ricevuto dopo Pechino. Ne parleremo domani, ora ci concentriamo per un attimo sulla pallanuoto e sentiamo proprio il contributo che Dario Ricci ha raccolto con Sandro Campagna, il CT della nazionale maschile, che ricorda i bellissimi tempi andati. Possiamo ritornare ai fasti di un tempo, ma bisogna lavorare molto. Il mondiale è il primo step, è la prima verifica. Sono fiducioso perché i ragazzi si stanno lavorando molto bene, con grande entusiasmo e motivazione. Sicuramente stelle come Benedek, Casas, Vujasinovic, giocatori conosciuti anche in Italia perché hanno militato nel campionato, direi anche fortunatamente, tra virgolette, per noi non ci saranno più, perché vuoi per limiti d'età, vuoi perché stanchezza proprio dopo 15 anni di nazionale, hanno deciso di non giocare con le proprie nazionali, per cui mancheranno queste stelle. Ci saranno dei nuovi talenti come i fratelli Varga dell'Ungheria, come Sukno della Croazia, come Slokovic e Janovic del Montenegro, Molina e Perrone della Spagna, e mi auguro che ci sia anche qualche italiano che quest'anno giocherà con maggiore responsabilità, soprattutto i giovani, sperando che si mettano in evidenza nell'interesse della squadra. Dario, abbiamo pochi secondi, continuiamo a parlarne domani. L'Italia è con Stati Uniti, Macedonia e Romania nel gruppo della prima fase nel settore maschile. Le nostre prospettive realistiche quali sono? Ma soprattutto il primo obiettivo è accedere ai quarti di finale, poi da quel punto in avanti può essere possibile tutto, grazie anche al tifo del Foro Italico. Al momento sulla carta speranze di medaglie poche con gli uomini, pochissime con le ragazze. Benissimo, continueremo a parlare dei mondiali di nuoto ormai attesi al via nel fine settimana a Roma, domani e tutti i giorni a Tempo di Sport con Dario Ricci, che per ora ringrazio. Buona giornata. Buona giornata anche a te, Massimo. Parleremo naturalmente domani ancora di tutti i temi dell'attualità, il tour che oggi è ripartito, il calcio, mercato e non solo. Grazie per oggi a Laura Vanossi in redazione, a Valeria Bernardi in regia, grazie a voi per averci seguito, e risentirci su Radio 24 da Massimo Callegari.